anni. Canale 10? Canale 10? Brecco, attenzione al canale 10. Attenzione canale 10, Brecco. E su, senza segnale radio sei rimasto, poverino. Dai, stiamo provando, cercando di terminare questa radio. Vediamo un po' se dopo una marea di riparazioni si riesce ad andare avanti, dai. Bene, bene, andare avanti, per fratello. Vedi un pochino, dimmi tutto. Allora tu qui mi arrivi un 6S9 radio, diciamo 5, dai, non è super amplificata ma va benissimo. Sì, la tengo bassa per non rompere il gatto e per non innescare, però se ci gioco un pochino mi essere più alto. Ti dispiace la radio così si cambia? No, va benissimo, considerando che sei 8 di segnale qua nella mia stazione, va più che bene, abbastanza amplificato e tutto, va benissimo, non, nessun problema, ti ascolto non bene, magnificamente, per il segnale che hai. Tu sei bello tondo, ma hai questo apparecchio famoso? Sì, ieri sembrava, ho trovato un altro difetto, un altro falso, perché la maggior parte poi sono falsi contatti che ho trovato, condensatori un po' in perdita e poi qualche commutatore da sostituire, grazie a Dio di queste radio qualche cablaggio da sostituire, di queste radio ne ho, adesso stanno iniziando a scarseggiare, ma ne ho ricambi da display a VFO a vari pezzi, dai, cablaggi, schede, un po' di roba ce l'ho. E quindi questa no, sembra che vada bene, avevo un difetto di tab che ogni tanto, e meno male che sono riuscito a trovarlo, poi alla fine era un cavetto dalla scheda PLL che portava un segnale, quindi sganciava dal PLL, una volta che sgancia il PLL non vedi più niente, si azzera tutto sulla radio, e quindi sono riuscito, e poi non è il fatto del cavettino che ci metti 2 secondi, è trovare, fare la ricerca, vai a trovare, poi il guasto non è altro che un cavettino risaldato, perché poi sono cavi vecchi, quindi alla fine dopo tanti anni sono quelli RF che rimangono rigidi, diciamo, chiamalo il polo caldo se lo vuoi chiamare per capirci, dai, ma comunque lo vuoi dire il segnale, e lì è purtroppo è rigido e quindi dopo tanto se le correnti che passano, non lo so. Tutto. E quindi adesso la sto provando, perché ieri potrebbe essere questo, che anche a parte che mancava mi si sganciava dopo un po' che trasmettevo. Adesso la faccio scaldare e voglio vedere se continua a farlo, perché se così trovare anche questo sarà nuovamente ardua la cosa. Non i bus, lasciate gli dico, non i bus su più. Capisco. Vabbè, io sono di importante mondo alla fine. Adesso vabbè che devi fare parte di tutto. Però ultimamente ho mollato un garaggio di tensione, perché non è possibile che metta a posto questa, no, ho cambiato il PLL, è sufficiente. Non lo so, il Galaxy 2, ma parlo del Galaxy, quello con la IPT3006, con quella scheda sempre. K. E me che problema ti dà quella? È arrivato morto, è arrivato attenzione, c'era il display del frequentimetro che segnava solo due caratteri a metà, molto luminosi. Perciò, cosa c'ha, cosa non c'ha? Dice, di solito basta cambiare il regolatore, mi cambio il regolatore e hanno perso un po' di luminosità, il frequentimetro è rimasto così. E allora vai a sugare, vedi che non oscilla, e si fa 4 conti veloci, da quello che ho trovato un condensatore un po' gonfio, mi sono immaginato aver superato la tensione, perché c'è una cosa e l'altra, mi fa cambiare un po' di condensatori e mi rendo conto che non sto oscillando il PLL, tolgo il PLL, lo cambio, inizio a oscillare, per quel timetro inizio a farsi i cavoli su, e tutta la storia c'è. Morale, anche per questi vetri riparati. adesso esce con mezzo un evento speciale. E tardi ci sei. Sì, un attimo che stai sovramodulando. Ma è così, ma stai qua. Io un conto però è un baracchino, un conto è un baracchino. Io adesso per esempio un conto sono queste radio HF, sono un po' più complessi. Il baracchino c'è una scheda dentro, affannato, uno schema, te lo segui bene o male, alle volte ti fa impazzire, ma su queste radio è una rottura. Se le conosci bene, se non le conosci molte volte le ripari veloce perché conosci il difetto. Infatti secondo me chi le ripara, che lo fa per lavoro, secondo me riescono anche a entrarci nei feti, tutto perché hanno casistica. Adesso per esempio ho voluto fare una prova, ho montato un'altra mia scheda che avevo, una scheda IF, perché volevo fare delle prove su questa radio, e questa qua impazziva, eppure era buona la scheda. Vado a cercare, ho trovato un richiamo della Kenwood dove ti diceva sulla control unit di sostituire una resistenza, infatti arrivano delle tensioni sballate, una resistenza e un condensatorino. Immaginati che pure da 3 pico Faraday, da 5 pico Faraday a 3 pico Faraday, e una resistenza da 22 kg modulo, non mi ricordo. Sbagliate un po', perché con questa non lo faceva. Montro, rimonto e con quella scheda è andata bene, cioè, vai impazzisci, cioè, o ti fanno un richiamo del genere a Kenwood, se no, non è capo i piedi, e niente, per dirti, no. Però di quel Galaxy non è uno qua, che ne devo mettere, sto impazzendo perché uguale mi si sgancia. L'ho messo a posto più di una volta e da sempre, alla fine comunque sto impazzendo, credo che sia la bobina, volevo provare a cambiare, perché altro non c'è, ho controllato tutto, è tutto buono, cioè quando fai tutti i controlli, però magari c'è. Sì, vedi, mi è mancato, spegni, riaccendi, vai, questo è un difetto che ti fa impazzire. Cavolo, così, ma ti è mancato perché cosa hai visto? Ha sganciato frequenza o portante? Cosa ha fatto? Niente, sgancia, a un certo punto tac, e scende la potenza e non esce più, spegni e riaccendi più o meno, e questo qui è qualche componente in più, che cos'è? Non ne ho più voglia, vai e trova. Ascolta, ce l'hai il termometro tra russi? No, cioè, vabbè, c'ho il termometro, sì, senti di quello per misurare le temperature, sì. Anch'io dalla scheda veloce, quando è caldo, magari trovi qualche anomalia per temperatura, a me è successo, con la pistolina, capito? Adesso faccio scaldare, però non è il problema, che può essere tutto e più, dove può essere dalla scheda IF, probabile, come può essere sui finali. E infatti, proprio complessa, neanche se così fine. No, qualche danno, guarda, ho trovato così, danni impossibili, che non sai, che non capisci, dopo che addirittura magari mi sono attentato, che sono un amplificatore Mascari, un amplificatore particolare, con delle conversioni, non le stavo chiamando pieno, cioè, oddio, l'ho acceso, ho fatto girare, tutto era morto, però c'erano i pezzini, a un certo punto mi si opacizzava un canale, parlo di hi-fi, perciò iniziava a perdere acustica su un canale, era un transistorino del cavolo che saldava malamente, ho fatto il confronto con l'altro canale e praticamente c'era un condensatore aperto, una resistenza che ha perso 50 ohm di valore, praticamente durata così a freddo, vedeva fuori 20 ohm, era da 100, 20-30 ohm, una cosa così. Però capito, su uno stadio finale è tutto lì, apri, c'è poco da andare bene o male, questi apparecchi, poi quando ti fanno difetti così, o hai casistica, chi li fa, me l'ha già fatto, lo sai, intervieni su qua, lo so già, impazzisci, e poi dopo tutto, perché per il resto è tutto a posto l'apparecchio, l'ho riallineato tutto quanto, va benissimo, ho trovato un po' tutte le magagnine. Questo che sgancia, non lo so, così non ne ho nemmeno idea, quando non ho idea impazzisci, considera, ti stai dicendo, ho il col 4,40 purtroppo, che ho cambiato il display, ho rifatto i cofani, poi, vabbè, comunque sembra, c'è un oscillatore di V5 che ne ho fatto 6 quarti. Questo oscillatore del V5 cosa hai fatto? Ogni tanto sgancia, adesso lo faccio scaldare e poi gli do una controllata. E niente, quello lo stesso, lo sto impazzendo, perché ne ho fatto... C'è qualcosa di caldo, Fabri, c'è qualcosa di caldo. Cavolo, ti sembra la pistolina, fatti in giro subito, c'è qualcosa che è caldo. Sì, dai, ci sentiamo, adesso lo lascio in trasmissione, finché non lo fa, e mi sposto su un altro canale e vedo un po' di o scarico fittizio e vedo un attimino di trovarlo. Che sta sganciando ogni... ogni tempo proprio. Comunque per il Galaxy ti ho un consiglio, cambia gli MCTC, le TLL e vedi come va. No, non puoi essere sicuro di niente. Io ho tolto il zoccolato, cambiato, ma parecchio sicuro che ho risolto col Galaxy per quanto riguarda la frequenza. Ho smesso di sganciare e non scatta più, quindi vabbè, poi ho fatto un tanto di cose. Se ti dovesse capitare in mano i Galaxy, perché magari mi sei gonfio in testa di questo che stai facendo, dici esci che mi rilasso un po', mi faccio il Galaxy, cambia di 30 gradi del TLL e magari ti cambia tutta la musica. Fabri, buon lavoro, buon tutto, in bocca al lupo, incrocio le dita, tocco ferro, questo faccio l'M600, sto toccando ferro e ci sentiamo nel prossimo, buona riparazione. Va bene, ti ringrazio, no, di quell'apparecchio gli metterò in mano, l'ho già cambiato quello integrato, l'ho già cambiato, non c'entra niente. Va bene, dai, ci sentiamo, proseguo. Già ti ascolto io, già ti ascolto. Sì che ti ascolto. Sì, ti ascolto. Prova che guardo il segnale, Riccardi. 9:10. Con chi stai parlando, Natali? Sì, vabbè, non ti... già stai uscendo. Natali. Chi è? Con chi stai parlando? Con Riccardo stavo parlando. Che voleva un controllo. Mi ha telefonato, da. Ci sentiamo, Riccardo. Ciao, Claudio. QRT per me. Perché non arriva qua? Dalla nonna. Eia. Ciao. Vabbè, Riccardo, ho attaccato per te solo. Ci sentiamo, che sta con tutto attorno. Ciao.